Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rockwave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rockwave. Stasera una band di Bassano, i Finks, un gruppo giovane, una boy band, posso dire così, siete d'accordo o no? Siamo tutti più o meno. Musica giovane, quindi un nuovo modo di vedere Rockwave. Innanzitutto buonasera a voi. Buonasera. Buonasera a tutti. Un viaggio non tanto faticoso da Bassano del Grappa, vedi. Avete fatto abbastanza presto, non avete trovato traffico. E musicalmente l'idea di creare una band come è venuta? Siete tanto giovani voi. Beh, nasce come tutti i gruppi, no? Inizi a scuola. Sì, inizi a suonare a scuola. Sì, sì, a voler imitare, no? I tuoi idoli che vedi, non so. E quali sono i vostri idoli? Ce ne sono tanti. Io ho letto sulla vostra biografia i Radiohead. I Radiohead sono di sicuro tra i principali. Che altro sono il gruppo che ha un po' determinato il passaggio dall'influenza molto rock. Ma voi siete rock, eh? Noi siamo rock. Voi siete rock, non è che non siete rock, anche se avete molti strumenti elettronici qui davanti. Sì. No, siamo assolutamente rock. Dobbiamo precisare, il rock esiste, assolutamente. Certamente. Non è mai morto il rock. Deve evolversi come tutte le cose. Deve evolversi, sì. No, niente, diciamo che è stato il gruppo che ha un po' determinato il passaggio all'influenza elettronica nel nostro rock, insomma. C'è l'influenza elettronica. Esatto. Però l'elettronica, io ho sentito il vostro disco. Sì, c'è l'elettronica, ma c'è anche molta melodia, posso essere. Sì, siete sicuramente d'accordo? C'è molto pop inteso come pop cultura della melodia. Intendo così. Io. Sì. Una cosa non abbiamo fatto, ci presentiamo proprio, il nome tuo? Beh, io sono Francesco. Che suoni? Cantante con la chitarra. E poi sì, mi occupo degli arrangiamenti elettronici. Ti occupi degli arrangiamenti? Io sono Pietro. Ti occupi? Sono al basso e questa sera... Hai la tastiera? Sì, mi invento un po' più alle tastiere. Una tastiera basso. La stessa cosa. Sì, però... beh, una tastiera basso. Eccoci. Vai. Invece sono Alberto, il batterista. E sì, stasera suono con una groove box, l'Electribe, farò le batterie così. E tu? Non mi sentite. Adesso ti sentiamo, dai. Io sono Daniele. E sono i sintetizzatori, mi occupo della parte più elettronica. C'è un po' alla Radiohead, dai. Sì, dai. Tra parentesi. Green ok, Wood. Questa è la vostra formazione. Abbiamo detto che siete partiti dalla scuola. E poi come si è sviluppato il discorso? Ma inizia a provare prima nel garage, che è proprio un garage. Poi c'è ancora questo garage. In realtà noi lo chiamiamo un bunker. Perché un bunker, tra l'altro è stato il titolo che abbiamo dato al nostro primo demo, che l'abbiamo proprio inciso. Avete inciso un demo precedentemente? Sì, chiaramente. Autoprodotto completamente, fatto dentro questo bunker e l'abbiamo chiamato così. E lì ci troviamo ancora a provare. E come si crea un gruppo, un pezzo vostro? Dove parte l'idea? Ma ci sono vari modi. Ultimamente stiamo lavorando molto sia in studio, abbiamo fatto un piccolo nostro studio dove curiamo le preproduzioni, sempre avete a casa visto? Mia. Stasera... i vostri tecnici, sì, avete un organigramma assolutamente. Chiaramente. Però siete una band giovane, però organigramma nutrito. Anche il vostro fotografo ufficiale avete. No, aveva la macchina fotografica. Ok, dimmi. No, e diciamo che partiamo spesso dallo studio, dal creare magari al computer delle idee, partendo dalle synth, da loop. Quindi la parte elettronica, poi prendiamo, magari andiamo in stanzina, iniziamo a elaborare la parte più suonata e live, e poi cerchiamo di fondere i due lati andando magari dopo in studio gli agganci giusti, esatto, e poi in live. Il live è fondamentale. Cosa vuol dire live? Cioè vuol dire suonare continuamente, è importante per la vostra musica il live. Assolutamente, noi speriamo che tutto quello che stiamo facendo adesso, ovvero lavorare al disco che uscirà tra poco, esatto, e ci porti a intraprendere un'attività live ancora maggiore di quella che abbiamo avuto finora. Dimmi. No, l'artista, dico, concretizza, artista mai come durante i giorni che viviamo adesso, insomma, l'artista concretizza quasi solo il live, anche a livello, diciamo, di profitti, di ricavo. L'artista se suona live. Sì. Perché gli artisti che non suonano live, o meglio si nascondono, sono artisti sì, però però oddio, bisogna vedere. Sì, sì, sì, cioè, bisogna vedere. È importante, è fondamentale. È fondamentale perché la gente sente, cioè, compra il disco, per carità, lo può portare anche in classifica, ma deve essere la controprova. Cioè, sul palco chi sei? Suoni? Esatto. Vabbè, sai suonare, certo, o sai solo muovere la bocca, certo, e in playback? Purtroppo ho letto recentemente, proprio qualche giorno fa, su un giornale famoso, un giornale musicale famoso, che una ragazza è andata a vedere il concerto di Madonna a Milano. Tanta gente, lei aveva l'impressione fissa che Madonna suonasse in playback con 50.000 persone. Ma come si fa 50.000 persone davanti a suonare in playback? Eppure lei aveva questa sensazione, sì, ma solo, non solo lei, anche tanti altri. Vabbè, chiusa la parentesi. Apriamo una certa età, magari. Apriamo la, dimmi. Anche lui lo pensava. Anche lui lo pensava, perché ha visto anche lui, hai visto anche te il concerto di Madonna, suonava in playback. Vedi, purtroppo, io, come mai? Non si sa. Apriamo la finestra vostra e quindi facciamo sentire il pezzo che vi sta trascinando. Perché siete arrivati a MTV con questo pezzo? È stata una causalità oppure? Sì, penso l'interesse attorno a noi si era creato, ma non era così. Sì, underground, con il nostro primo demo abbiamo trovato i produttori giusti. I nostri produttori, che sono quelli che ci stanno seguendo, al primo concerto che abbiamo fatto in e lui il patronato. Sono nascosti i produttori in regia, sono. Dimmi. Dopo il primo concerto, che è stato proprio un patronato, come beh, bello gruppi, che no? Sia così. Cioè, sì. Esatto, ci hanno visto, hanno deciso di iniziare questo percorso che in realtà è durato, cioè, già 2 anni che stiamo lavorando dopo questo demo, insomma, che abbiamo fatto noi, stiamo lavorando a queste nuove canzoni. E poi l'interesse di MTV è, non sappiamo esattamente perché diciamo, però, che è stato un passaparola generale, insomma, prima uno. Beh, il pezzo è accattivante, ben suonato e ben arrangiato. Non posso dire che sia americano o inglese, è vostro e basta. Sì, lo sentiamo. Che pezzo, come si titola il pezzo? The Gamer. Ok. Blu Radio Veneto Rock. Rockwave, l'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org, ci potete vedere e sentire con le telecamere, ci potete vedere e sentire. In regia Michele Toson, alla guida delle telecamere Roberto Baldi. Allora, com'è stato costruito il pezzo? Come l'avete creato? Dove è partita l'idea di questo singolo di apertura dell'album? Beh, in realtà il ritornello... È il ritornello che è fondamentale. Il synth che si sente sotto, sì. Che è un synth... E che synth è? Spieghiamo agli ascoltatori. Il suono penso originario sia un Orlead, poi vabbè l'abbiamo filtrato con vari effetti, quindi... E è nato ancora penso un anno e mezzo fa. In realtà avevamo un ritornello, cioè avevo... E chi l'aveva scritto il ritornello? Io in sala prova avevo tirato fuori... Avevi tirato fuori un accordo? Sì, il giro di synth, sì. Fatto al computer con un lead, poi trovato insomma la melodia della voce, però non riuscivamo a trovare un verso, infatti siamo andati avanti diversi tentativi a provare varie soluzioni. E in realtà il verso siamo riusciti a trovarlo, quello che ci convinceva... Adesso non tanto tempo fa, insomma, quindi. Cioè, è stato un concepimento che è nato diverso tempo fa. Per poi gradi. Abbiamo messo via, abbiamo detto, vabbè, quando avremo l'ispirazione lo riprenderemo sì. In mano. E alla fine siamo riusciti a concretizzarlo. Ripeto, il singolo è molto accattivante. È importante che ci sia un singolo accattivante. Non un singolo da consumo. Non è da consumo, è accattivante. Cioè, apre bene la finestra all'album. E poi sentiremo in parte, perché l'album dovete ancora finirlo. No? Ah, sì. Però stiamo registrando in questi giorni. Quindi il singolo parte. Non ci sono state tante discussioni in sala per fare questo pezzo. Oltre all'inizio tuo, il testo che hai scritto te, poi tu l'hai arrangiato. Avete trovato sempre un accordo, bene o male, un accordo un po' difficoltoso, ma l'avete trovato. Sì, sì, sì. È chiaro che. Beh, come tutte le cose. Certo. Chiaramente sì. Dimmi. È un pezzo fluido. Sì, è molto fluido. Hai detto una cosa. Certi pezzi escono veramente. Cioè, quasi non c'è bisogno di parlare più di tanto. Cioè, la musica a un certo punto esce e diventa così fluida che. È vero, hai ragione. Che non ci sono problemi, diciamo. Mentre il pezzo andava, chiaramente a microfoni spenti, ho detto. Sì. Si ricorda, mi sento un po' di punk dei Green Day. Voi avete detto sì, perché noi abbiamo un po' di punk all'inizio di carriera. Inizio di carriera, avete appena cominciato. Però abbiamo qualche nocciolo, qualche entità in punk. Beh, ma l'altro magari ascoltavamo Nirvana, o per dire... Ecco, ascolta, beh, sì. Sì, è più quello magari che si può intendere per l'atto nostro punk. Cioè, un po' duro, certo, rude, possiamo dire questo, punk in quel senso là. Dimmi, lo spirito, perfetto, lo spirito punk, buonissimo. Quindi il singolo, abbiamo aperto l'album come si chiamerà? Avete già un titolo? No. Ci stiamo dibattendo tra la scelta finale. È difficile dibattere sul titolo di un album, sì, stiamo... elaborando i concept dei vari pezzi e cercando un attimo di concretizzare con una parola una linea generale. Una linea generale, perché non è mica facile. Non è fondamentale il titolo di un album. Non so ce l'abbiamo in mente, però è una cosa avercela in testa, ancora non riuscire a sintetizzarla con poche parole. Taglia testa al toro, nome della band è finita. Qualcuno fa così. È vero, però quasi qualcuno tutti, dimmi. Anzi per il primo disco. Non ho capito, scusa. Che lo fanno quasi tutti anche. Sì, esatto. Quindi non sono coraggiosi come voi lo fanno. Ma voi siete coraggiosi a quanto sembra, quindi non volete dire questa è The Think Punk, basta, chiuso. No, avete qualche idea diversa. Sì, beh, idee sicuramente. Perfetto. Allora, a proposito di idee, ricominciamo a tessere una volta la tela. Presentiamo il pezzo inedito, che non è ancora presente sul singolo. Sì. Sarà nel nuovo album. Come si intitola questo pezzo? Get Panic. E come è nato? Come si sviluppa? Ne parliamo dopo. Vuoi che ne parliamo dopo? Ne parliamo dopo. Ok. Blu Radio Veneto Rock. Rock. Stand up, hear what your wish away. were considered enemies. The only one known, doesn't matter if it's sad, we'll let you go to fall inside the middle. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockwave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito allora l'altro pezzo che apparirà nel nuovo album. È un pezzo decisamente più mosso del singolo, molto più mosso, sì. Molto più movimentato. Con una sottile linea di demarcazione tra il punk, purtroppo io il punk lo sento sempre, è un po' anche la il movimento un po' alla dance. Com'è questo pezzo? Com'è è stato creato? Come è nato? Come si è sviluppato? Beh, il lato più più danzereccio nel senso positivo, sì, chiaramente. Sì, è più rock, anche diciamo rappresenta meglio forse l'intera produzione nostra, diciamo che il singolo è un po' più romantico, tra virgolette, sì, nel un senso, po' più melodioso, la maggior parte dei pezzi sono un po' più aggressivi, diciamo. Ma anche questo è stato questo invece è stato un pezzo molto veloce, sì. Nato abbastanza velocemente, sempre da un cioè avete creato proprio di getto o quasi? Sì, quasi di getto, sì. Nato nel giro di pochi giorni. Perfetto. Se non mi ricordo male è stato proprio un pomeriggio, e questo pomeriggio è venuto fuori tutta l'idea di base del pezzo e poi ci abbiamo lavorato. No, dicevo che ci abbiamo lavorato praticamente un pomeriggio per tirar fuori il grosso dell'idea. Sì. E dopo ci abbiamo lavorato forse una settimana o anche qualcosa per arrangiarlo, se non ricordo male, sì. Per curargli tutti i pezzi. Come si cura un arrangiamento per un pezzo vostro? Io voglio sapere, perché gli ascoltatori devono sapere come si crea un pezzo. Non è semplice, ci vuole fatica. Dipende dallo strumento tante volte, nel senso che magari a volte bastano 10 minuti in sala prova, magari ben illuminati. E questo qua ci sono voluti 10 minuti? No, per arrangiarlo qualcosa di più, però per scriverlo abbastanza poco, sì. L'idea era partita subito, sì. Però stranamente questo è partito da un arrangiamento. Sì, cioè... molto spesso in realtà, cioè io lavoro molto al computer e quindi magari giri di synth, anche in questo caso è partito tutto la ritornello. Che cosa c'è sotto in questo pezzo, oltre, dimmi, gli strumenti che vengono usati? Beh, tutta l'elettronica dalla quale siamo partiti, appunto il giro di synth nel ritornello, e da cui dopo ho tirato fuori le parti di voce del ritornello. Poi ecco, le parti di voce, scusa se ti incalzo, ma io devo sapere, devo capire. Le parti di voce vengono messe dopo o prima? Vengono inserite? Come vengono inserite le parti di voce? In genere sempre da una base di partenza, che può essere appunto un giro di synth oppure anche un riff di chitarra in alcuni casi. Comunque sì, sempre dopo, e anche dopo viene il testo in genere. Ho capito, quindi. Per quanto mi riguarda. Ah, perfetto. Per come lavoro. Quindi però è uscito bene in ogni caso. Siete stati soddisfatti, insomma? Sì. Questa è la stesura finale oppure no? In realtà sarà un po' modificata ancora, rivisto per l'album, esattamente, perché l'album ha una stesura particolare, sì, diciamo. No, non importa, si sente tutto, gli strumenti sono veri, non sono quello è tutto reale, esatto, tutto diciamo vivo. Che abbiamo registrato in una prima sessione in studio un tot di pezzi che adesso chiaramente, dovendo rifinire tutto l'album, cercheremo di uniformare, no? Non è semplice. Ma la produzione artistica è tutta vostra? Per quanto riguarda gli arrangiamenti, sì, poi chiaramente abbiamo i nostri produttori che in studio lavorano con noi ai suoni. E cosa fa un produttore in studio, praticamente? Ma lavoriamo insieme sui suoni di batteria, poi magari se nascono, succede che nascano nuove idee magari per qualche parte, qualche aggiunta, qualche taglio, soprattutto per quanto riguarda proprio effetti di produzione, scelte particolari che magari dentro. Sì, sì, sono qua. Parliamone scelte... male. Non potete parlarne visto male. Mi sta osservando. Dopo. No, diciamo che magari molte volte si sente dire che i produttori prendono un gruppo e lo snaturano o lo fanno suonare come meglio vuole il mercato. In realtà noi abbiamo il totale controllo della cosa, quindi lavoriamo insieme per scelte comuni, quindi in realtà non siamo, diciamo, il gruppo che si trova nella condizione di dover scendere a qualche compromesso per volontà di discografici o... No, siete indipendenti. Avete un'etichetta, la Irma Records, che vi distribuisce, che vi distribuirà l'album, vi ha distribuito adesso il singolo. Esatto. Però siete indipendenti, le vostre scelte musicali, c'è il produttore qua, chiaramente. Sì? Dico, come le Irma, anche noi siamo indipendenti. Esattamente. In realtà comunque è importante stare su una indie. Ma... Sì. No. Sì, assolutamente. Per quanto riguarda, per il fatto anche, penso che l'idea major stia un po' decadendo. Sì, a livello hai ragione. Proprio internazionale. L'idea major, non so se sai, però oggi 9 settembre sono usciti tutti i dischi masterizzati in versione sia mono sia stereo dei Beatles in tutto il mondo. È uscito proprio oggi in tutto il mondo, Italia compresa, Padova compresa. Quindi è una operazione, 4 anni di operazione, hanno pulito, hanno fatto dei collegamenti veramente straordinari. Forse conviene di più appunto investire su qualcosa che esiste già, come lo stanno facendo. I Beatles sono i Beatles, lo so, però i Beatles, 4 anni di lavoro incredibile. C'è il box per i collezionisti solo in mono. Sì. E il box c'è il box per collezionisti in mono e il box per collezionisti in stereo. Non vi dico. Non lo so, il prezzo è molto alto, Michele. È molto alto, sì. Vorresti prenderli? Lo so, ma è decisamente molto. Però è una opera incredibile. Hanno trovato delle tecnologie spaventose. A proposito di questo, faccio una piccola pubblicità. Lunedì prossimo, sempre sulle nostre reti, ci sarà un ricordo dei Beatles, i 40 anni di Abbey Road. Sapete che l'8 agosto 1969 uscì il mitico album Abbey Road, quello delle strisce padronali. Faremo un piccolo ricordo. Chiusa la parentesi, passiamo a voi. Siete pronti a suonare qualcosa adesso? Proviamo a suonare in versione... E che versione mi date? A proposito, adesso dovevi dire una cosa prima di cominciare, la versione che fate di questo pezzo. Oddio. Sì. No, nel senso che dimmi. Abbiamo lavorato a questo genere di live in maniera un po' diversa, perché sapevamo che non avevamo... i tempi e soprattutto gli spazi vi abbiamo messo un po' in difficoltà allora. Ma no. Difficoltà no, però comunque è proposto qualcosa di un po' diverso, un po' di adrenalina allora. Sì. Beh, nel senso positivo di creare qualcosa di diverso, sì, quella che ci vuole, insomma. Benissimo. E così ci siamo tutti messi un po' in veste diversa, facciamo qualcosa che non tradizionalmente facciamo, ma Rocco è in veste sempre diversa, quindi per quello vi ho chiamato apposta. Partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. Calling me down to show my mind's adhere. irrational devices, moving nothing but words. Del rock. Ok, bella versione. Vi posso dire una cosa, non so se voi conoscete questa band. A me ricordava, forse quelli che sono un po' più anziani di voi, gli Sparks di Kimono My House. Non so che qualcuno conosce gli Sparks. Conosci gli Sparks? Kimono My House, un gruppo di un po' di anni fa. Facciamo entrare il GP in radio, dai. Di un po' di scappi, no? Di un po' di anni fa, mi ricordava quella versione che avete fatto, è stata molto interessante, decisamente totalmente diversa da quella che ho sentito qualche minuto fa. Bravi, complimenti, l'avete creata veramente, mi ha soddisfatto pienamente, secondo me. È stato un tentativo, ma è stato tutto positivo, secondo me. Sì, sì, e questa contrapposizione delle voci, questa voce tua graffiante, potente, mi ricordava moltissimo uno dei due fratelli degli Sparks, che erano due fratelli tedeschi. Tedeschi, d'origine tedesca, ma vivevano in Inghilterra. Però, si parla degli anni '80, però, chiaramente. C'è qualche reminiscenza? Non conoscendo. Beh, chiaramente non conoscevi, però qualche addentellato. Chiaramente. Beh, gli anni '80. I Radiohead hanno cominciato alla fine degli anni '80. Sì. Noi siamo più. Un po' più avanti, chiaramente un po' più avanti. Chiaramente... Leggendo tra la vostra biografia, che ho qui davanti, chiaramente mi sono documentato. Il primo Space Contest, che cos'è? Ma è stato un... E poi avete suonato a fianco del Teatro degli Orrori, che è un bel gruppo. Sì, beh, è stata la prima volta che hanno presentato proprio il primo album. Primo album in assoluto, un bel gruppo tosto, il Teatro degli Orrori. Forti, forti. Molto forti, sì. Certo. Allora, com'è nato questo discorso di collegamento fra di voi? Lì era proprio il momento in cui stavamo finendo il nostro demo, quindi avevamo 16 anni. Quindi eravate molto giovani. Siete molto giovani a stesso, chiaramente. Sì, ma qualche anno fa. Beh, qualche anno fa, insomma. Non tantissimi. No. Esatto. 2007, o sbaglio. Sì, 2007. Qui qua c'è scritto 2007, dice, sì, a Cremona. Sì, adesso non, io le date non vado molto d'accordo. Cioè, un po' di anni fa, beh. Ma è stato, siccome noi l'abbiamo molto anche col web, abbiamo iniziato, facciamo parte insomma di questa realtà, quindi ci teniamo a, anche perché è il metodo con cui ti rapporti proprio direttamente, no, con chi ti può ascoltare, ricevere giudizi, critiche, eccetera. E com'è quel gruppo di teatri gli orrori? Siete scambiati dei pareri, eccetera? Ma in quell'occasione no, in realtà, perché è stata la prima, siamo, era un contest online intanto, sì. Noi ci siamo iscritti, come mi pare c'erano 220, c'erano? 220, penso gruppi, mi pare 220 se non sbaglio, poi, però un bel numero, un po' di, tanti. E da tutta Italia, e cioè noi siamo rimasti chiaramente un po' così, è stato proprio il primo tentativo, no? L'iscrizione a un contest così, e ci hanno detto che eravamo vincitori insieme ad altri due gruppi con cui abbiamo suonato poi, che sono stati i Canadians. I Canadians sono venuti qua a suonare, sono molto bravi, molto sono bravi. Dimestri i Canadians. Sì, assolutamente. Abbiamo suonato con loro anche un'altra volta. Bene. E i Fresh Air of Hiroshima. Quelli li conosco anche quelli, sì. Non sono mai venuti, ma i Canadians sì. Esatto, e niente. È stato il nostro secondo concerto. Abbiamo fatto, diciamo, la. Avevate paura? Ma un po' sì. Un po' di tensione, sì. Tensione giusta, quella emotiva, l'adrenalina giusta per suonare. È stato un bel salto, sì. È stato un bel salto? Sì, cioè nel senso passare dall'oratorio a quel palco. Lo so, però si comincia sempre nell'oratorio in genere, fra amici, e poi si va avanti. Sì. C'è sempre un pubblico, anche l'oratorio c'è sempre un pubblico però di affezionati, che poi si amplia, voi siete bravi, avete ampliato notevolmente il discorso. Da Cremona in poi su, l'è stata una strada in salita? È stata una strada difficoltosa oppure no? Ma è stato normale. Normale. Noi abbiamo continuato a fare. Chiaramente era appena uscito il demo, quindi abbiamo iniziato, no, a cercare chi ci faceva suonare in giro. Abbiamo trovato un bel po' di dati interessanti, soprattutto nel Triveneto. E abbiamo iniziato a fare i primi live anche in bei locali come Tag Club. E come si sa, come ci si sente a suonare dopo 2-3 concerti davanti a un pubblico non solo di 2-3, ma 10, 20, 30, 50, 100 persone? 200, 300, quali sono? Beh, diciamo che è gratificante. È gratificante al massimo. Sì. Non c'è, cioè, l'inizio c'è sempre un po' di tensione, poi però poi la musica porta via la tensione. Sì, quando vedi che comunque la gente. E il repertorio che cos'era all'epoca? Il repertorio? Esattamente. Ma erano le canzoni. Qualche cover? Abbiamo fatto, sì, qualche cover, ma abbiamo sempre limitate abbastanza. Perché è giusto fare la musica propria. Sì, assolutamente. Avete difficoltà a suonare nei locali che vi chiedono le cover di Vasco o di Liga, di ma Liga, diciamo di Vasco? Che abbiamo invitato direttamente magari di proporci a posti magari che sapevamo che facevano anche non solo quel quello. Tipo di realtà, quindi abbiamo sempre cercato magari di andare dove insomma sapevamo che in quei pochi posti, perché non sono tanti purtroppo. Ma c'è adesso, visto che si parla di possibilità di suonare, ma ci sono difficoltà per i gruppi emergenti di trovare un buco, se mi è consentito il termine, per suonare musica propria? Tanta difficoltà. L'arrangiatore, l'organista mi dice tanta difficoltà. Perché tanta difficoltà? l'arrangiatore, lo strumentista, dai. Il tastierista, dai. Una volta si chiamava l'organista, non è mica una brutta cosa. Voglio vederlo suonare l'organo, però. Kate Emerson è un po' più duro. Kate Emerson suonava abbastanza. È un organista, per modo di dire. Ok, allora c'è difficoltà. Beh, sì, cioè. Mai come negli ultimi anni, comunque. Sempre di più, anche la, diciamo, la figura del DJ ha preso abbastanza piede. E quindi. Elimina le band per la il gente, DJ. Ma no. Non tanto quello, però. La gente si abitua ad ascoltare magari una cosa più compressa, non è un sound più aperto, che a volte magari può essere anche spiacevole, cioè magari non ti permette di poter parlare finché stai ascoltando, non ti permette, per carità, un DJ ti permette di poter ballare tutto quanto. Noi comunque facciamo parte di una cosa sia analogica e sia digitale, perciò non è che stiamo qui, cioè, diciamo, cose, tecnologie, tecnologie vecchie e tecnologie nuove, diciamo, per dire, parlando del mio strumento, fatti un esempio. La batteria, ad esempio, c'è la batteria analogica, quella fatta dai fusti, sì. Ma ci sono anche dei suoni, quali quelli che ho usato appunto stasera, che sono digitali, sono suoni campionati, che vanno appunto a riempire, ad arrangiare quasi il pezzo. Ho capito, ho capito. Dunque così... Cioè, c'è un po' di nuovo, un po' di vecchio, c'è un ritorno all'analogico, è giusto che sia così, però c'è anche il digitale. Sì, perché comunque siamo, cioè, una tecnologia band, nuova. Comunque il palco è fatto per sudare. Il palco, diciamo, è fatto per sudare, hai detto una cosa giusta, bisogna sudare, bisogna dare tutto davanti agli ascoltatori che sentono, se uno dà tutto, si sente, si percepisce, non c'è niente da fare. E invece quello, non dobbiamo per ritornare al concerto di Madonna, però... 50.000 persone con playback mi hanno confermato, e quindi l'ho letto sul giornale, non è mica sono balle, quindi suonava in playback, purtroppo è così. Mi pare che ci sia in scaletta adesso un pezzo da un altro disco che avete scelto. No, non c'è un pezzo da un altro disco. Sì, esattamente, mettiamo quello là. È una traccia, mi pare che avete detto la traccia numero 11 di un disco che avevate detto voi. Trovate un po' in macchina, forse. Ti ricordi? Sì, può essere che sia un live dei. Un live dei? Sì, dei Soulwax, cioè una band belga a cui noi teniamo particolarmente. Sì, per l'evoluzione che ha fatto, soprattutto, e per il modo di proporsi, anche per la creatività che ha. Sentiamo questa traccia numero 11, è e, un poi, live, ci, e cioè, poi parleremo di altre cose, ok? Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Radio. SMS 346 23 20 033. Rockwave, l'onda del rock. Eh sì, era un po' duretto questo pezzo, decisamente duro, dei Soul Walks, che è un gruppo belga. Io parlavo dei Deus, io ricordo di quel belga, mi ricordo solo i Deus, però questo qua non lo conoscevo assolutamente. Allora il live è un live devastante, distruggono. Diretta rockwave.altrevista.org, ci potete vedere e sentire. Stasera abbiamo i Finks, gruppo di Bassano, Michele Tosoni in regia, Roberto Valdi che guida le telecamere. Non c'è, era presente prima. Era presente, se n'è andato, ma poi ritornerà, non ci sono problemi. Ok. Michele, hai una bella maglietta stasera, è proprio una bella maglietta, è vero, hai solo te. Ok, parliamo allora di questo gruppo. Come mai vi piace un genere di questo un po' violento, diremmo, un po' trasgressivo? Ma questi sono dal vivo, chiaramente, ma il pezzo originale è un po' diverso. Sì. È una hit abbastanza elettropop. Sì. Dimmi. No. È una hit elettropop. Come mai avete scelto un live di questo gruppo belga? Perché loro in live, adesso come adesso, proprio racchiudono, diciamo, gli elementi che cerchiamo di sposare anche noi. Loro sono arrivati a fare addirittura praticamente un remix in live, diciamo. Quindi loro suonano quasi come un DJ, però stanno suonando. C'è un batterista che fracassa la batteria, c'è un cantante, c'è un bassista. Quello di fracassa la batteria non è Kate Moon dei U, no, è veramente cattivo, è una bestia messa di lato. Ah, ho capito. E via, è una macchina continua. È pazzesco, suona con una batteria tutta triggerata. Fammi capire che cos'è la batteria. È triggerata, cioè, cosa vuol dire? Usa praticamente delle specie di... Sono dei sensori che vengono applicati, sì, diciamo, alla pelle, e alla quale lui attribuisce il suono che vuole. Sensori applicati alla pelle, interessante, esatto, questo. Trasformano il segnale. Ricevono l'impulso e lui lo può... Tecnologico in tutti i sensi, allora. Sì, lo usiamo anche noi. Usate anche voi. Sì, sì, sì. Questo, purtroppo la batteria stasera non c'è, però se c'era era interessante vedere. È un modo per unire il suono analogico delle mani. Non ho capito, scusami. È un metodo per riuscire a unire mani, sia il suono analogico vero, no, del rullante della cassa, con un suono campionato digitale tecnologico al 100%. Quindi in realtà è una tecnica che usano molto anche nel metal, soprattutto nel metal, sì, hai ragione. Quindi non avete nessun addentellato con il metal, voi chiaramente non amate il metal. Sì, non forse tantissimo. Rispettate l'influenza, sì, perché comunque ascoltiamo un sacco anche i Nine Inch Nails. Quello non fanno mica metal, secondo me. Qualche influenza pesante, sono duri, d'accordo, però certo, sono grandi. Disco nuovo è bellissimo da Bandy. Quello è uscito non da molto tempo fa. Sì, quindi queste influenze, questo gruppo belga. E poi ho letto nella vostra biografia altri gruppi, per esempio. I Does It Fall You, l'ultima parte finale gruppo, del... Sono un gruppo nuovo questo che mi ha scoperto da poco. E non è mica male come gruppo, Sono grandi sperimentatori anche loro. Siamo curiosi di sentire cosa faranno adesso, perché dovranno uscire con un nuovo album, no? Sì. Ho sentito che teoricamente hanno... una collaborazione anche con i Muse, quindi a proposito di Muse, avete sentito un nuovo album di Muse? È uscito da poco. Ma è uscito io? Sì, è uscito io, cioè l'ho uscito in anteprima per i giornali. Io ho sentito qualche pezzo, è un grande disco. Io ho sentito solo dovrebbe singolo, uscire adesso. Il singolo è l'anteprima di 10 secondi che girava su Facebook. Quello gira sempre. In ogni caso. Io l'ho sentito in una emittente nazionale, i due pezzi dei Muse nuove, è un grande disco. I Muse sono sempre stati un grande gruppo, Power Trio per eccellenza. Un trio con grande forza. La band, e sono molto amati in Italia, moltissimo amati. In Italia, anche più in amati che in Italia e in Inghilterra in alcuni momenti. Sì, non propriamente vero, però in Italia hanno un nutrito seguito. Tutto l'album è stato registrato in Italia. Esattamente, hai detto bene. In Italia hanno un collegamento notevole con gli italiani. Anche la moglie, se non ricordo male. È vero. Un grande gruppo in Muse. Muse è un gruppo interessante, è un trio con una grande potenza, però anche una grande melodia. Non so se siete d'accordo. Voi non siete in trio, siete in quattro. Noi siamo in quattro, però. Però. Ma in realtà anche loro in live sono in quattro, comunque. Sì, però. Sì. Però. No, vabbè, l'idea. L'idea è quella, però, sì. Sì, sì. Loro sono, per quanto mi riguarda, la più potente band live attualmente in circolazione. Forse molto, molto. Nine Inch Nails, loro, però. Sì. Sicuramente tra le più potenti. E... no, niente. No, no, giustamente. Non avete citato i Muse come vostri paladini, come vostri punti di riferimento, per almeno nella biografia. Per quanto riguarda il rock, in realtà attualmente lo sono, sicuramente, ma cioè, in realtà ne abbiamo tantissimi gruppi, quindi in realtà quella biografia è, boh, diciamo che ha qualche tratto generale, ma... Benissimo, allora adesso, prima del giochetto che verrà verso le 23, io proporrei un altro pezzo dal vivo, siete d'accordo? D'accordissimo. Va bene. Okay. Cosa possiamo far sentire ai nostri ascoltatori alle 22.55, quasi 56? Questa è sempre una versione rivisitata. Beh, a me piace una versione rivisitata, ecco. La precedente, tu cantavi in falsetto, mi è piaciuta moltissimo. Vediamo cosa canti adesso. E questa in realtà, sì, è Hypersonic Trip, in realtà. È un pezzo appartenente al nostro demo, primo demo. Quindi, che però riproporremo anche nell'album in una chiave un po' differente. Sì, esatto. Esattamente, okay. Quindi benissimo, allora partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. To be, there is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. There is no fit for what I want to be. Come on, won't you believe? Sono le 23 e un minuto. Rockwave, l'onda del rock. Ok, beh, bene, bene. A me è piaciuta particolarmente. Molto pathos avevi, come si dice? Pathos con la P, con 4P davanti. Molto trasporto. 23.01 ci dice il computer. E stasera abbiamo detto, c'è il giochetto, c'è il giochino adesso, il famoso gioco di Rockwave, i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Io sono stato buono con la band, li ho già avvertiti prima, la regola è che di non avvertire nessuno e di sputare, come si dice, il gioco alle 22.57. Siamo stati fortunati, siete stati fortunati, sapete già com'è il discorso e quindi avete già le liste dei 5 dischi da portare. Io non ce l'ho la lista. Non ce l'hai la lista, beh. Sei per ultimo, dobbiamo fare per ultimo, così ci puoi pensare. Vuoi cominciare? No, ma ce l'ho in mente. Ah, ce l'hai in mente, sì. Come differentissimo. Come vuoi, chi vuole cominciare? Comincia a te, dai. Avvicinati al microfono e vai. L'ho anche buttata giù. Bravo, molto bene. Guarda. Così andiamo. Io sicuramente porterei via The Doors, il primo disco che perché ti piace molto Light My Fire. Ma sicuramente sì, ma comunque mi piace proprio mettere il disco dalla prima traccia e farlo andare fino all'ultimo. Che bello perché sentire il primo disco dei Doors. Sì, sì, sicuramente se mi trovassi in un'isola deserta lo. Ma avresti paura di Jim Morrison, non sicuramente. Beh, paura. Paura nel senso positivo, cioè. Diciamo che è più. Paura non nel senso musicale, cioè un genio, un artefice, sì, un mito. Vabbè, di sicuro ha significato parecchio per me, perché comunque è stato un personaggio di grandissimo carisma che. Un grande carisma che di certo colpisce, insomma. Quindi Doors come primo album. Doors sì, come primo album. Poi ripercorrendo sempre i primi ascolti che ho fatto da ragazzino, aggiungerei The Dark Side of the Moon. Adesso ci fermiamo un secondo. Perché The Dark Side of the Moon, non Atom Heart Mother oppure On the Wall? Perché The Dark Side of the Moon? Sicuramente perché anche a livello proprio più che discografico, ma anche diciamo proprio di ascolti miei. Di ascolti, ha detto. Sì, è stato un disco che comunque ho sempre ascoltato perché erano il gruppo preferito di mio padre e fin da bambino li ho ascoltati tanto, mi sono entrati dentro. Sempre da un'orecchia e usciti dall'altra, poi invece ho cominciato ad ascoltarli veramente. Una volta si diceva che per quando si prendeva, Michele lo sa, quando si prendeva un impianto hi-fi, la prima cosa che si faceva, si prendeva The Dark Side of the Moon in disco, sì, e si sentiva per vedere le differenze fra le due casse. Adesso da una parte fa con The Fat of the Land. Esattamente. Adesso i tempi sono cambiati. Però gli impianti sono cambiati. Però no, uno dei musicisti dei Pink Floyd ha sempre detto: provate a sentire The Wall in disco e provate a sentire The Wall in CD. In disco si sente meglio che non in CD. Quindi è una cosa fondamentale. Disco in vinile. In vinile, sì, chiaramente. Adesso c'è un ritorno al vinile, però un ritorno, per modo di dire, però c'è un ritorno al The Wall, doppio album, mitico album The Wall, in disco si sentiva meglio che non in CD. Senti, Michele ha già... I Pink sono qua, ecco, sono nel sottofondo, i grandi Pink. Vero, Michele? Devo andare avanti, sì, devo andare avanti. Ok, per il prossimo, dai, dimmi l'altro. Il terzo è Homework dei Daft Punk, perché sono... Cioè, una cosa che mi è arrivata ovviamente dopo e comunque a tutti, perché cioè... Ripeti l'album? Homework dei Daft Punk. Ah, ho capito, sì. Molto più contemporaneo. Sì, decisamente più contemporaneo. Sì, è uno dei loro album che più mi ha colpito perché viene tantissimo fuori la loro freschezza di idee. Certo. E un album anche quello che non ascolterei dalla prima all'ultima traccia. Benissimo. Numero 4? Hot Fuzz dei Killers. I Killers abbiamo parlato... Di ore fa, mentre preparavamo gli strumenti, visto che adesso sono in classifica in tutto il mondo grazie alla rielaborazione di Hotel California, eccetera, eccetera, perché i Killers? Sì, perché... Perché è un gruppo giovane, ma un gruppo ben tosto anche. Sì, giovane, ma giovane allo stesso tempo tosto, cioè potente. hanno un'energia pazzesca. Melodia in e live, potenza. In live sono pazzesche. Esattamente. Un'energia incredibile e comunque anche loro sono partiti da cose molto rock e si sono evoluti a sperimentare nei loro pezzi molta più elettronica. Eccoli. Michele ha lo sguardo da killer. Ci propone il singolazzo dell'album. Esattamente. Ok, l'ultimo pezzo, l'ultimo disco. L'ultimo disco è sì, non Ok Computer, non quello, non quello, ultimo... quello è un capolavoro assoluto e sì, non poteva non, di non certo mancare. Non di certo di importanza tra questi ultimo, perché comunque è un po' l'album che ha fatto fare il salto verso l'elettronica e radio, di cui hanno iniziato a proporre veramente qualcosa di più avanguardistico rispetto alle loro prime produzioni. Poi dopo l'hanno evoluta ancora più verso l'elettronica. Molto però... cosa ne pensi dell'episodio dell'ultimo album di Radiohead messo in internet e poi venduto? Di sicuro è una bella iniziativa. Già in tanti comunque avevano avuto iniziative di quel genere, sì. Però loro comunque sono riusciti, avevano le carte in regola per poter... Avevano un grande budget dietro, però. Certo. Non avevano problemi di soldi. Proporre quell'iniziativa davvero a livello mondiale e comunque... È stata una gran trovata. È stata una gran trovata. Hanno iniziato, hanno aperto una porta per tanti altri. Certo. Sì, sì. Ok, benissimo. Sono molto contento dei tuoi 5 dischi. Adesso passiamo al tuo collega che è qui di fianco. All'altra parte della sezione ritmica. Giusto che sia così. No, niente. Io, come primo, i miei vanno quasi in ordine cronologico. Benissimo. Comunque, partiamo dalle Zeppelin 1. Come mai le Zeppelin 1? Cosa senti? Perché le Zeppelin 1? È tutto spirito. Le Zeppelin è spirito concretizzato nel rock proprio. Lo sai che è stato il primo album a andare... C'è stato un record mondiale di andare immediatamente in classifica al numero uno senza essere stato pubblicato. Tra l'altro, uno dei primi album dove si sente qualcosa di hard rock in un ma certo l'hard senso. Rock cioè, fatto hard da rock Jim veramente. Page e sì. Robert Plant era un'altra cosa. Non tralasciamo il mitico Bonzo. Bonzo e nemmeno era al di sopra di tutti i batteristi. John Bonham ne sapeva. Era incredibile, una macchina incredibile. Una macchina da guerra. Poi c'è Back in Black del 1980. Perché gli SDC? Perché gli SDC anche adesso? Perché sono... Quella è proprio 30 una... milioni di copie ha venduto gli SDC con questo disco, 30 milioni di copie. Sono una band live, totalmente live, sono una band che non ha mai cambiato il loro live. Esatto, tuttora è uguale. E spacca comunque. È sempre con i pantaloncini corti, è sempre lui. Angus non cambia mai. Non cambia mai. Bon Scott è stato sostituito da Brian. Thunder. Tra l'altro questo dovrebbe essere, non mi pare, live in Donington, può essere? Guarda, là l'ha scritta. TNT, ma non so se... Non so, però un live, un live. Questo qui. E niente, poi passo ai Foo Fighters, Dave Grohl comunque... un momento, ci fermiamo un secondo. I Foo Fighters è un bel gruppo, un qualcosa nata da una grande band. Come mai Foo Fighters? Beh, il CD che ho scelto è There's Nothing Left. Bello, Lose, molto bello. È un CD che intanto io ho ascoltato tantissimo, soprattutto in bagno. Interessante. È un CD da bagno. Fa bene. Dall'inizio alla fine. Può capitare. Tra una sigaretta e l'altra. In bagno la sigaretta non dovresti farla. In bagno la sigaretta. Non saranno molto contenti i due familiari, devono sempre aprire il bagno dopo. Ok. Quindi ecco, anche mi trovassi in un'isola deserta, non ho il bagno. Però hai Foo Fighters. Mi piazzo qualcosa là. Esattamente. Poi come si farebbe? Cioè, generatori, cose? Cioè, come facciamo a far andare l'album? Non lo so. Fa un problema in realtà. Ci sono le pile, non so. Con Lost stare andando avanti da 6 anni. Appunto, penso che si riuscirebbe in qualche modo. Sì, è diventato un immaginario collettivo, sì. L'isola di Lost. Proprio. Te ne manca ancora uno, mi pare. No, due. Due, perfetto. Mi manca Idealistic dei Digitalism. Quelli non li conosco molto. Sono due produttori tedeschi che appunto ha fatto quest'album, che è il loro primo album. Anche sporco a livello di sound, diciamo, ma veramente valido, densereccio comunque come stile. Loro battono un casino quasi come Justice, vorrei dire. Però insomma si danno dentro, sono fenomenali. Bene. E poi mi porto dietro Requiem dei Verdena, che è il loro ultimo album. Bel disco, bel un disco. Un capolavoro, secondo molto me. Molto bravi Verdena. E quindi ecco, prima di morire di fame andiamo di Requiem. Perfetto, ciao, siamo ragazzi a posto. Ok, adesso passiamo al nostro, pardon, non organista, ma strumentista. Magari vai. Organista. E beh, perché non c'è niente di male. Magari fossi organista, dai, vai. Ma io parto con Absolution dei Muse, già citati prima, perché comunque... Perché i Muse ti piacciono particolarmente, una grande band, eccetera. Soprattutto non vedo l'ora di vederli in live, perché... Arriveranno. Sono ancora giovani, per cui... Sì, molto... ritornano in Italia, sono già là. Avrei molto tempo per vederli, chiaramente. Perché veramente, beh, Absolution. Poi in Italia sono, lì, sono spesso in Italia. Quindi. Poi Absolution è proprio un disco, secondo me, bellissimo. Secondo me è quello che mi piace di più. E per cui lo ascolterei sempre. C'è un fischio. Anche questo sono i Muse praticamente. Yeah. Poi un altro, beh, che li ha citati prima Alberto. Sono i Justice con Cross, due produttori francesi che sono in Verdena. Sì. E Justice, due produttori francesi che spaccano di brutto, hanno veramente cattivi, però veramente. Ma come mai la Francia in questi ultimi tempi con l'elettronica è molto tonica, molto tonica, sì, secondo e te. Adesso sono curioso di vedere cosa uscirà il prossimo, che cosa riusciranno a fare il prossimo album in Justice. Questo dovremmo ascoltare, se ripeteranno un bel lavoro come Cross, che è veramente forte. Poi terzo album, per citare anche un po' l'atmosfera qua italiana, è il microchip emozionale dei Subsonica. Ecco, un altro gruppo molto interessante. Comunque a livelli italiani un po' ci assomigliano un po' dalla parte elettronica, almeno ci assomigliamo un po' anche da loro, possiamo un po'... Un punto di riferimento. Sì, un punto di riferimento da cui possiamo prendere un po' spunto, sono Subsonica e notevole band italiana che spaccano anche loro di brutto, veramente... li abbiamo sentiti tutti e quattro noi poco tempo fa che sono stati allo Sherwood. Avete visto da vivo, soprattutto. Sì, sì, sì, ma molto bravi, sei molto bravi, bellissimo, certo. Bellissimo live. Il quarto album, un po' per un po' anche divagare, è Dynamite di Jamiroquai. Ah, come mai Jamiroquai? Quello che ha un sacco di Ferrari nel suo garage personale. È stato una scelta quando ero qualche anno fa, non so cosa mi è girata. Abbiamo Jamiroquai, sì, ti trovi? No, adesso sta cercando Michele, vai. È stato, non so, un giorno così tempo fa, avevo voglia di comprarmi un CD e non so come mai mi è caduta la scelta... Jamiroquai, proprio nel momento che c'era il suo singolo, sì. Dan Mike fuori, sì. E l'ho preso, non so, me lo sono ascoltato parecchio e veramente poi lui anche come personaggio un po' fuori di testa, decisamente, mi piace anche nei video, cioè proprio esaltato, sì, strano, decisamente macchine, spaccatutto, le macchine sono dappertutto, le Ferrari ci sono dappertutto, tutto così, e poi comunque c'è di quei giri di basso. Il remix, sì, però sono sempre sì, sì. È comunque di quei giri di basso, veramente. Poi io anche come ex bassista porto sempre il cuore il basso, per cui sai, un bassista che lo sa che fa slap da paura, che proprio rimani veramente fuori di testa. Bene. E come ultimo album, Fate of the Land dei Prodigy. Ah, grandiosi, che non potevano mancare. Sono arrivati a questo album, secondo me, veramente al massimo livello. Addirittura a contendersi la classifica con U2 quando è uscito quest'album. Sì, questo mi ricordo. E loro usano veramente suoni paurosi, di quei bassi che ti fanno tremare. Poi sentiti anche poco tempo fa in live. Certo, hai visto poco tempo fa. Sì, però col nuovo disco. Sì. Il Metal Must Die, certo. Però veramente potenti. E a proposito dei Prodigy, dobbiamo ricordare che è stato prodotto il primo album da Madonna. C'è poco da fare, li ha lanciati lei. Sì, però, Per quello è stata brava, ha trovato un gruppo spaccano. Notevolissimo. Spaccano, decisamente spaccano. E vediamo se il nostro cantante spacca anche lui con i suoi cinque. Alla fine me la sono fatta anch'io la lista. Vai. Ve l'ho concesso assolutamente. Ve l'ho concesso. Dimmi te. Il primo album è Nevermind. Quelli in Nirvana sono al di sopra di ogni sospetto. Quelli hanno aperto le porte a tutti. Perché Cobain ha aperto con quel disco, ha fatto a me personalmente totalmente. Proprio. Già la copertina fatto favolosa. All'epoca, insomma, ho deciso di iniziare a suonare la chitarra perché epocale, un mi piaceva, volevo suonare The Smells Like Teen Spirit. L'hai suonata? Sì, sì, l'ho suonata un sacco a 13 anni, 14. Vedi, hai cominciato bene. Hai cominciato bene. Benissimo. Ok, quindi Nirvana in assoluto. Sì, beh, sì. Questo disco, per quanto riguarda questo. Assolutamente. Anche se secondo me a livello di produzione rappresenta soltanto un lato loro. Diciamo che è molto prodotto molto pulito come album. Quindi in realtà loro in realtà sono molto più sporchi. Quindi in realtà Mali Nutro da. Esattamente. Non si poteva non mettere su in Nirvana. E, no, dicevo che in realtà loro, anche soprattutto in live, ma anche nei successivi live in MTV album, quello acustico, diciamo che anche quello rappresenta soltanto una parte. Penso che la parte più vera loro sia quella proprio grande, sporca, che probabilmente si può vedere nel di più in Utero, forse. In utero, e anche nel live che è uscito. Esatto. Poi cosa ne pensi? Scusami se ti faccio una divagazione. Esce fra qualche giorno il nuovo di Alice in Chains. Li conosci gli Alice in Chains? Sì, ma non mi risulta che il cantante fosse morto. Più, sono d'accordo, il cantante non è più. Però esce un nuovo disco di Alice in Chains con un nuovo cantante. Boh, io sono sempre molto scettico su queste riunioni. Senza leader o senza... soprattutto senza lui, senza, che lui faceva parte. No, lo trovo anche un po' forse adesso, non so come sia la cosa, però sinceramente se io fossi lui... mi rivolterei di tu. No, vabbè. Sì, non è molto bello, secondo me. Però è come se adesso rifondassero in Nirvana, cioè, praticamente. Io ho sentito un'anteprima, mi pare, recentemente. Non è un brutto pezzo, assolutamente, però non c'è più il cantante, chiaramente. L'atmosfera è un po'. Ma diversa. Non vedo perché dover riutilizzare il nome di un gruppo quando. Probabilmente i diritti avevano gli altri due. Il motivo è quello. Ok, vai allora. Secondo I Need Minute Now, che è un dei Soulwax che abbiamo sentito prima. Sì, certamente. Questo non è un disco live, questo è un disco ufficiale. Questo è il disco ufficiale, esattamente. È stato il disco che più mi ha formato dal punto di vista dell'unione del rock. Ma come avete scoperti questo gruppo? Io li ho scoperti in live, casualmente, a un festival a Bologna. Ho capito. E poi ho deciso di approfondire. Sono stati subito una folgorazione. Sì, perché ho visto tutta la gente che ha iniziato a ballare. All'epoca ascoltavo solo rock, quindi è stato il primo approccio, diciamo, all'elettronica. Certo. O comunque vedere della gente che ballava un live. Quindi. Benissimo. E poi, tornando un po' al periodo grunge, Siamese Dream. Degli Smashing Pumpkins. Ah, grande disco quello là, grande disco. Come mai Smashing Pumpkins? Adesso sono riformati anche loro. Io sono andato anche a vederli. Come sei stato? Sei stato soddisfatto delle riunioni? Sì, diciamo che come comanda, live sì, oppure... almeno lì c'è lui, diciamo. Lì c'è lui. E c'è anche Chamberlain che è... Chiaro. Diciamo che sono sicuramente tra i due principali. Vabbè, principali James Yapro, forse. Sì, chiaramente, è fondamentale. No, è stato un live... soddisfacente, sono chiaro, non nessuno può essere quello volta, che è stato, però io a me piace particolarmente il doppio loro, Melancholy, quello penso sia uno dei dischi più importanti, come Nevermind. Siamese Dream a me piacciono le cose un po' più grezze. Melancholy era già molto più raffinato all'epoca, magari adesso lo apprezzerei di più, e soprattutto per il sound della chitarra, come hanno utilizzato. Sì. Michele è un artista. Sì, ma questo è Adore, però. Però non importa, è il disco loro. Qua è stato il passaggio all'elettronica, che tra l'altro anche lui ha tentato di fare in modo un po' così. Lo so, sai, hanno molto... tentato. No, no, ma di variare. Capisco, ma è come Chris Cornell adesso che si fa produrre da Timbaland. Cioè, è normale, penso che uno se. Quando mette una mano, viene fuori l'oro. Sì, poi tutti lo chiamano. Cioè, perché massimo rispetto per Timbaland. Ma c'erano i Porcaro, i fratelli Porcaro, che quando producevano loro andavano in classifica. No, no, adesso sì, diciamo che ci mette il nome e il sound. Sicuramente, lo so, anche le se. Adesso non si vendono molto come una volta, però si vendono. Negli Stati Uniti, sono in Italia, non si vede più niente. Vai. E poi With Teeth dei Nine Inch Nails. Un altro gruppo veramente altro gruppo... tosto. Bravissimi, straordinari. E quest'album soprattutto per la qualità della produzione, il mixaggio, i suoni che sono riusciti. Sì, tra l'altro quest'album è stato fatto con Dr. Dre insieme a Butch Vig, a Trent Reznor, quindi un team pauroso. E si sente tutto. Il mio riferimento per quando produco, per quando lavoro ai suoni, diciamo, a livello, non tanto perché voglio avere i loro suoni, però per l'equilibrio che hanno, sono riusciti a creare in questo album. E poi me ne manca uno, penso. Te ne manca ancora uno. Ho deciso Talk dei Sigur Rós. Un altro disco molto interessante. Sigur Rós recentemente hanno fatto un disco di grande successo. si sono un po', qualcuno ha detto, qualche critico, un po' affievoliti, un po'. Ma io invece ho trovato che questo album, molto questo l'album nuovo. No, parlo dell'ultimo album, quello che è uscito da pochi mesi. Allora forse non l'ho. Ecco, non l'hai sentito. È un disco da classifica. Non da classifica nel senso negativo. È un disco molto. Ma non è quello doppio, non no? Non è quello. Allora non devo ancora ascoltarlo. Ecco, bene. È molto. Beh, dai, sono bravi. Sono molto loro bravi. Io li ho visti, dal vivo e penso che sia stato forse. Posso dire, il concerto ma più come emozionante. È una cosa veramente indescrivibile. Cioè, da brividi. È l'unico concerto in cui sono riuscito proprio a avere. Cioè, sia per l'utilizzo delle bello, luci. Bello, questo è molto accattivante, molto dolce. No, ma ogni volta che li ascolto mi vengono. Va bene, adesso alle 23:20, va benissimo, dimmi. Mi vengono proprio i brividi, cioè un fattore, penso, fisico. Sì, ascoltando loro. Bravi. Cioè, chiaramente sono da situazione, però. Cioè, non è che li puoi ascoltare se vuoi far festa, però dopo averla fatta, penso che siano. Esattamente, il gruppo. Bene, abbiamo concluso questa 20 dischi abbiamo presentato. 5x4. È una bella cosa, una bella cavalcata. Adesso, cosa abbiamo in programma? Un CD, benissimo. E cosa avete scelto? Non vi ricordo quel pezzo? Il Muse, mi pare. Forse Muse, ecco, Pagan Baby. No? Ah no, terza traccia. No, facciamo la terza allora, traccia. Allora, cos'è? Un remix? Il remix del pezzo. Uno dei remix che hanno fatto per il nostro singolo, fatto da Ash, che è tra l'altro il nostro ex tastierista, ha suonato con noi per diverso tempo. Salutiamo, tra l'altro, se ci sta ascoltando. Un bacione. Ecco, bene, adesso sentiamo e parliamo dei quattro del singolo che abbiamo già parlato, sì. Però dell'idea di fare i remix, ok? Va bene. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. A proposito di SMS 346 23 233, Simone vi ha scritto. Siete sempre i numeri uno. Dobbiamo salutarlo, Simone. Chiarissimo. Grandissimo fan. Molto bene. Fan numero uno. Allora, diretta rockway.altervista.org, in regia Michele Toson, è ritornato Roberto Baldi, dobbiamo dirlo, è ritornato che cura le telecamere. Abbiamo sentito questo pezzo mixato, perché il singolo e poi tre diverse versioni? Che idea avete voluto? Perché l'avete voluta o non so, avete fatto un accordo col produttore? No, beh, è stata una cosa voluta da noi. A parte vostra. Sì, sì, c'è stato poco tempo anche per questi DJ di farlo, in realtà, perché è stato tutto molto veloce quando si è deciso di iniziare col video, con la promozione sul singolo, quindi in realtà hanno avuto poco tempo per fare questi remix, ma sono riusciti a fare un ottimo lavoro e noi siamo soddisfatti. Diciamo che è un modo anche per lanciare... No, per far vedere comunque l'interesse anche per un diverso panorama, le diverse facce, no? Esatto, esatto. Sì, poi cioè, comunque questo pezzo ha un certo tipo di taglio e gli permette di essere sentito anche. Bello sto questa frase, un certo tipo di taglio, ti puoi spiegare meglio musicalmente? No, nel senso che comunque trasmette certe sensazioni e ha un certo tiro a livello proprio strumentale, potendo essere riprodotto in altri ambienti e comunque essere completamente rivisitato, può anche permettergli di essere ascoltato in discoteca. Certo. O magari in altre situazioni, perché è un po' più ballabile, ecco. Esatto, più ballabile. Prima tu mi hai detto a microfoni spenti che possiamo parlare anche del vostro video. Possiamo parlare del vostro video? Ah no, beh, ho detto magari a più tardi. No, era solo per... No, dimmi, voglio saperlo. No, avete fatto un video? Sì, beh, del singolo abbiamo girato il video. E come è stato questo video? Beh, è stata un'esperienza nuova, positiva. Chiaramente, molto bello, sì. Ci siamo ritrovati in una giornata in cui per la prima volta siamo venuti a contatto anche con queste strumentazioni, col fatto di trovarsi comunque di fronte a una telecamera. E... Stasera ne abbiamo due piccole, però insomma, sono ridotte. Però, insomma. No, è stata la prima esperienza un po' davanti alla telecamera, non in diretta, però. Chiaramente. Comunque. E poi anche con la gente che ha partecipato al video è stato molto divertente. E il lavoro finale. È positivo. Assolutamente, siamo stati veramente molto soddisfatti. Sono riusciti i registi insieme a noi a creare comunque un'idea e a realizzarla, che non era semplice. È stata un'idea nuova, secondo me, almeno per quanto riguarda il posizionamento che doveva avere quel video. È stato bello. Abbiamo utilizzato delle macchine particolari per riuscire, no, a creare degli effetti con l'acqua. Ah, bello, interessante. E c'era una macchina, una Phantom si chiama, questa macchina da ripresa che cattura molti più fotogrammi di una camera normale, quindi ad esempio la rottura di un palloncino si può vedere nelle sue varie fasi, no? E quindi è molto affascinante. Molto bello, molto interessante. Tu hai il xilofono, mi pare, vero? Il Glock Speak, non è lo xilofono, il Glock Speak. Lo usava spesso anche Michael Woodfield, il Glock Speak. Fammelo sentire un secondo. Esattamente, benissimo. Ok, va bene per preparare a un grande pezzo, una grande cover che io amo particolarmente e voi amate particolarmente. Eh sì, no, beh, è così. Chiaro. Sì, chiaro. Perché Karma Police dei Radiohead? Ma diciamo che in realtà è stata una scelta per il fatto che in poco tempo che avevamo per preparare un pezzo acustico abbiamo... Di fronte. L'avete preparato per Rock Wave questo pezzo? Sì, bello. Lo proporremo molto anche. Sono molto soddisfatto, molto onorato domani, di sentire anche, una cosa. Anche domani a Milano ci ritroviamo a fare più o meno la stessa. Ah, domani avete un impegno anche a Milano? Sì, vero? Con 55 Diesel 55 facciamo la presentazione delle nostre magliette. Bene. E la Diesel fa la presentazione di una nuova linea di scarpe. E fatte con l'Adidas, quindi. Bene, bene, bene. Quindi avete un impegno non da poco. Sì, e prendiamo nello store Police. Faremo e Karma Police dal vivo. Lo facciamo anche adesso, 23:30, fra qualche secondo. Blue Radio Veneto Rock. like a fridge, like a into radio. Karma police, arrest this girl in here. The head is making me feel ill, and we have crashed the party. This is what you get. This is what you get. This is what you get. And you mess with us. Come on, police, I've given all I can. It's not enough. I've given all I can. Canada, we are still on payroll. This is what you get. This is what you get. This is what you get. Are you mess with us? For a minute there, I lost myself. I lost myself. And for a minute there, I lost myself. I lost myself. Del rock. Ok, diretta a rockway.alterrevista.org, ci potete sentire e vedere stasera con i Finks. Abbiamo sentito Karma Police o Police dei Radiohead, versione loro molto intimista, decisamente intimista. Sì, l'ho trovata intimista. Sì, sì, sì, sì. Intimista? Interista? No, interista no, assolutamente no. Intimista. No, io sono juventino, quindi assolutamente no. Io Juve-Stabia. Molto, molto... l'atmosfera è sempre la stessa. Il disco dei Radiohead, Ok Computer, è un disco epocale, e questa è una canzone epocale. Kid Day anche Kid Day, sì, ma Kid Day è già un po' diverso, ma... più sperimentale. Per te è più sperimentale? Sì, per me è più importante. Ti piace di più Kid Day? Non di più, in modo diverso, è stato più influente sicuramente. Ok Computer, il disco che, come giustamente qualcuno diceva di voi, li ha fatti conoscere a tutti in tutto il mondo. I primi erano un po' più potenti, poi Ok Computer hanno raggiunto la perfezione totale, poi chiaramente sono andati più avanti, molto avanti, specialmente il solista con quell'album, Tom York, che ha fatto un album molto solista, strano, molto interessante. Benissimo, sono stato molto soddisfatto, perché è la prima volta in 5 anni che facciamo una cover dei, cioè Karma Police dei Radiohead, non è mai capitato. Sono molto contento, molto onorato di questo. Io sono un vecchio rockettaro un po' di tempo. Benissimo, adesso parliamo un po' del vostro sito. Del nostro sito, del nostro MySpace. Del vostro MySpace, scusate. Come ci si può collegare a voi per vedere cosa siete, cosa fate, eccetera? Beh, siamo presenti in molte realtà nel web. Diciamo che la principale è MySpace per quanto riguarda gli aggiornamenti e magari anche a livello grafico. Chi la fa? Vedere gli aggiornamenti a livello grafico? Beh, il nostro grafico insieme a noi lavoriamo sincronizzati, diciamo. Sì, sì, sì. Sì, nascosto. Lavoriamo sincronizzati, diciamo che è quello che ha la macchina fotografica? Esatto. Ah, fa un po' di tutto allora, sì. Il grafico, ma siamo tutti un po' tutto fare. Beh, è giusto che sia così. Sì, bisogna. È giusto che sia così, è bellissimo questo coinvolgimento fra di voi. Bene, allora poi dicevi? MySpace e Facebook sono i due social network che in cui siamo presenti personalmente, anche quindi rispondiamo ai messaggi. Certo. Insomma, è molto utile, utilissimo internet secondo me. Sicuramente. Beh, per noi diciamo che è stata un po' una partenza, appunto anche quel contest lì è iniziato da internet, quindi per noi sicuramente è un metodo per stare in contatto con le persone interessate a quello che fai. È un modo per far sentire la tua musica anche direttamente. Certo, senza barriere. Senza barriere, sicuramente. Il bello è che può farlo chiunque alla fine. Cioè, il bello, dico, è che può farlo veramente chiunque. L'importante è saperlo gestire con intelligenza. Ecco, l'importante è saperlo gestire. E con idee nuove si può sfruttare. Cioè, sì, all'interno del web anche sempre canali diversi che si possono creare, sono stati creati e lo saranno di sicuro, insomma. Chiaramente. E vi volevo chiedere un'altra cosa. Sì, se sono scritte delle date, quella di domani abbiamo già citata. Altre date che avete? Beh, per ora siamo in questi giorni in studio, quindi stiamo finendo l'album in questi giorni, che siamo impegnati tutto il giorno. E posso chiedervi quante tracce avrà questo album? Tra le 10 e le 13. E quindi un album corposo, sì, non sì, è un sì. album di minutaggio ridotto, insomma. Sì, assolutamente. E questo è positivo. Quindi sì, avete tante idee. Abbiamo tante idee. E poi molte volte ne abbiamo talmente troppe che continuiamo a mettere in discussione anche il lavoro che facciamo. Quindi magari un pezzo ha necessità di essere ripreso continuamente. Poi ci accorgiamo che magari dalla prima preproduzione, prima preproduzione in realtà è un altro pezzo rispetto a quello che ci troviamo di fronte alla fine. Quindi ma avete delle cose nel cassetto che per motivi diversi non sono state usufruite, oppure tutto il materiale verrà usufruito per l'album? Abbiamo dei lavori che sono stati accantonati perché non ci convincevano pienamente, o magari consideravamo superate il discorso. Superate, chiaramente abbiamo già fatto un demo, quindi di quel demo ad esempio abbiamo deciso di prendere la canzone che probabilmente più ci rappresentava e l'abbiamo deciso di rifare, ho capito, è un po' diversa e la rimetteremo nell'album. E no, più che altro in genere buttare via del tutto, sì, è successo, no, però in genere sì, è più un accantonare, dire magari verrà fuori. Per mi dicevano certe band che sono venute qua tempo fa, spesso succedeva che accantonavano dei pezzi e poi dopo un po' di tempo riprendevano i pezzi e li cambiavano, però è quello che è successo con The Game, con voi era fondamentale. Sì, sì. Quindi non possiamo definire un greatest hits, sono dei pezzi che avevate già pronti. No, diciamo che il nostro modo di lavorare è quello, cioè di non creare un sacco di pezzi e poi magari tra i 50 sceglierne, non so, una solo 10. È più proprio il fatto di, mentre lavoriamo, di già lì, capito, renderci conto di che piega ha preso, quindi valutarlo già in quel momento. Benissimo. Allora adesso mi pare che ci sia un disco da sentire, o sbaglio? No, non c'è un disco. Non c'è un disco. Mi dico, facciamo un live. Facciamo un altro live. Perfetto. Cosa ci fate sentire? Beh, facciamo il singolo a questo punto. Lo fate in modo diverso, chiaramente. Sì, perché è importante. Non so se siete preparati. Sicuramente vi siete preparati prima per venire qua stasera e presentare un live. Ma che difficoltà c'è fare un pezzo acustico? Voi che suonate non propriamente acustico, ditemelo, che è fondamentale. Anche che non suoniamo proprio questi, a parte sapere. Io e Dani che suoniamo questi strumenti, loro due è la prima volta che si approcciano, diciamo. E sono stati bravi, assolutamente bravi, perché la batteria non esiste, diciamo, a posto della batteria c'è una specie di una groove machine, è una cosa, come si chiama, che in realtà è tutto un campionatore, è un campionatore, comunque ecco, non è semplice, un campionatore. La telecamera te lo inquadra sicuramente, sì, è un campionatore, fa dei suoni che non è la batteria, però cosa vuol dire? Ma comunque riproduce dei suoni analogici di batteria, però ecco, sì, lavora su dei pattern, per ogni pezzo decide un pattern, un togli metti, diciamo, di suoni. Ma dopo dal vivo c'hai la batteria vera, certo, e propria. Certo, infatti la difficoltà di questo è di stare è tranquilli piccola. Qua non toccare un po' troppo. No, no. beccare la batteria. La batteria mi permette di esprimermi forse meglio, però insomma dai, siamo contenti così. Ma va bene lo stesso, cioè perché non abbiamo usato la batteria dal punto di vista dello spazio? Questo è uno studio di una radio, è solo per quel motivo, se no la batteria ci sta, ma ci sta lo stesso anche questo riproduttore. Sì, adesso andiamo con il live, sì, hai ragione, e partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. The clown you feed can't stop this war. Don't say it's me. I know I can't get out. And never do I weep and never do I laugh. Dato dentro sicuramente, eri un po' stanco, eri un po' stanco. Vabbè, cosa vuol dire? Fa bene alla salute. Sì. I Nirvana vanno sempre bene alla salute. Nirvana, soprattutto acustici, quelli di MTV, quello di, il famoso album di Kurt Cobain acustico. Abbiamo sentito il singolo, versione ancora versione diversa, e questo è positivo. Abbiamo sentito la versione normale, la versione remixata, la versione acustica, versione live, versione delle 23:45. Ah, non va bene così. È molto positiva. Per me va tutto bene. Siamo, non, abbiamo ancora un quarto d'ora. Sì, mi, cosa dici Michele? Sì, Michele è scatenato. Michele stasera è scatenato, c'è poco da fare. Abbiamo circa un quarto d'ora, abbiamo ancora una canzone da far sentire, una canzone da far sentire suonando. Abbiamo parlato delle tournée, parliamo anche un momento della casa discografica. Che supporto avete avuto quella dalla Irma Records praticamente? Vi ha dato la distribuzione? Del singolo. Adesso distribuirà anche l'album. Adesso anche l'album, esattamente. Però la produzione, abbiamo detto, la produzione artistica è vostra, i produttori sono qua, fianco. Esatto. Ci sono state delle discussioni con i produttori oppure no? Ma no, tutto liscio. Sempre un confronto. Solo un confronto. Sì, no, ma... Ecco, puoi venire qua al microfono, puoi dire direttamente, ecco, visto che ci sei. No, che certe volte ci fanno incazzare, però sono bravi ragazzi. Sono bravi ragazzi. Ma certe decisioni vanno lisce, altre volte invece sono belle. Ma è giusto. Ma è giusto che sia, c'è una, ci vuole un come si dice, bisogna delle discussioni per creare i pezzi, se no deve essere tutto semplice, non esiste, ci vuole una discussione, cosa dite? Siete d'accordo? Assolutamente. Bisogna avere un po' di adrenalina, ripeto il discorso, deve venire fuori anche nelle discussioni. Certo. Però la base sono delle buone idee, sì. Esattamente, sulla base delle buone idee, sono tutte appienate, poi avete andato con il singolo, avete già due o tre pezzi già predisposti, cioè, che abbiamo sentito precedentemente. Sì, beh, in realtà ce ne sono diversi altri. L'album è quasi completo? Sì. Manca cosa? Mancano parte delle registrazioni delle voci adesso. E poi delle cose importanti sì, no, però non fondamentali. Avete per quanto già... riguarda le parti, più o meno ci stiamo ritoccando qualcosa, però. E quindi siete soddisfatti completamente? Sì, in realtà almeno io, ma penso tutti, dobbiamo ancora renderci conto effettivamente dell'album. Che ma avete già sentito tutto l'album oppure? No, non è ancora integrale. Non è ancora non integralmente. È ancora. Ci sono alcuni pezzi finiti che abbiamo un attimo. Però. Sapete quando sarà l'uscita presunta? Ma da metà ottobre, novembre. Ce lo manderete sicuramente, no? Beh, certamente. Chiaramente. No, perché io ho fatto queste domande molto vago, per sapere. Siamo... Ce lo mandate. Ok, non ci programmiamo poco le cose, quindi. No, questione. No, dobbiamo sentirlo, no, chiaramente. il regista non è molto d'accordo. Ora, prima di finire la nostra cavalcata, abbiamo scelto di sentire un pezzo dei Muse. C'è poco da fare. Perché? Perché i Muse ne abbiamo parlato tanto. Perché i Muse sono un gruppo che veramente scatena, che fa bene verso mezzanotte, secondo me. Sicuramente. Dà un po' di potenza anche alla mattina. Ti sveglia un po' fuori. Perché voi non avete fatto un set da dormire, chiaramente. Avete fatto un set acustico da sviluppare le idee. E i Muse sviluppano molte idee, certo. Secondo me. Non facciamo bere la gente che è in macchina. Siamo pronti? Dimmi, sì. Non facciamo bere la gente in macchina. No, assolutamente la gente non deve bere in macchina, ma sentire i Muse sì. Quello lo può fare. Adesso li sentiamo. Ascoltate Muse responsabilmente. Dunque. Perfetto. Ok. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sì, Michele, abbiamo finito, ci siamo quasi. Per fortuna. No, per fortuna. Michele ha una bella maglietta, devo dire che è una maglietta, mi piace molto sta maglietta. Ah, me ne dai una con 30 euro. Ah, 15 euro. Ok, benissimo. Scherziamo sempre io e Michele. A due. Scherziamo sempre con Michele. Ripetiamo il nostro sito, diretta a rockway.alterista.org. Stasera avete sentito e visto i Finks. È Roberto Baldi che guida il tutto delle telecamere. Adesso è ricomparso, Roberto è ritornato, chiaramente. Abbiamo quasi finito questa bella cavalcata. Siete stati soddisfatti? Io sì, molto. Avete trasformato i pezzi che abbiamo sentito dal disco in pezzi acustici, li avete reinventati, secondo me è una cosa positiva. È stato difficile reinventarsi i pezzi qualche giorno prima di venire qua? Ma un pochino però. Un pochino, dai, una difficoltà. Ma c'è stato giusto? Ci devono essere difficoltà. No, ma in realtà è stato spontaneo, cioè sapevamo che certi pezzi si prestavano più di altri a essere rivisti in chiave marina acustica, così. Ma la chiave acustica è una, non so se chiaramente voi dal vivo non fate una chiave acustica, però in un prossimo futuro ci sarà una dimensione, un pezzo acustico nel vostro set dal vivo. Ma in realtà stavamo pensando per il prossimo live, in realtà, di fare la prossima canzone, cioè, che faremo. Domani presenterete i Karma Police dei Radiohead come acustico o elettrico? No, ma è tutto acustico, però la situazione sarà simile, quindi, a quella. Quindi sarà simile a questa. Chiaramente sì. Questo è uno studio, là ci sarà uno studio ben più grande, chiaramente. Ma in realtà sì, è dentro uno store, quindi un impiantino. Sì. Però l'acustico quindi è una cosa importante, fondamentale. Non è importante. Interessante, sì, secondo sì, me. Sì, sì. Diciamo che permette anche di capire il pezzo nella sua scarnezza. Ecco, un attimo, hai detto no? Una cosa giusta. Il pezzo deve riuscire a stare in piedi. Che non è mica semplice suonare in acustico, è sempre no, semplice. No, comunque si svuota tutto, si abbassano i BPM, quindi in genere si è anche un po' più tranquilli. E il pezzo deve avere la capacità, diciamo, di stare in piedi anche solo con chitarra e voce alla è fine. È vero. Quando uno è buono, bravo a suonare e a cantare, il nostro cantante è bravo, fa anche il falsetto. A me piace particolarmente chi fa il falsetto. È difficile fare il falsetto oppure no? Dai. Boh, mi viene spontaneo. Io no, amo particolarmente i cantanti che vengono qua e fanno il falsetto. Che secondo me è una cosa interessantissima per una band. È una cosa strana della voce. È una cosa strana della voce, esattamente. Però è interessante. Io ripeto, l'acustico non è facile. Perché l'elettrico è difficile anche l'elettrico. Però sì. Qualche volta l'elettrico copre determinate cose, determinati. Dilla diceva semplicemente che lui quando suona male Dilla, ma suonava sbagliato, ma con l'elettrico copriva tutto. Uh-huh. Era Dilla, lui sì. Poteva fare quello che voleva, però l'elettrico copre, l'elettrico è un bel suono, però l'acustico ha un'altra caratteristica, c'è poco da fare. E così, grazie di questa cavalcata che ci avete dato l'opportunità. Ripetiamo che siete usciti con un singolo, fra un mese uscirete col nuovo album, con l'album effettivo, l'album proprio, il primo album vostro. Dunque anche esatto. Un altro singolo. Uscirete un altro singolo, sarà un altro singolo. Ancora sì. Da decidere anche quello. Ancora decidete voi o decide la Irma Records? Decidiamo insieme, diciamo che The Gamer è stato una anche scelta. I produttori che sono nascosti adesso, sono sì. Qua vicini. The Gamer è stata una scelta, diciamo, forse più dal... da parte della produzione, che insomma si cercava chiaramente un pezzo, no, che avesse il compromesso. Beh, di era un bel comunque... pezzo, un pezzo sì, sì. A tratti americano, a tratti inglese, un pezzo che poteva andare avanti, sì, sì, sì. Che poteva aprire le finestre. Però come detto prima rappresenta comunque male il lato pop. Più. Sì, esatto. Posso dire pop? Sì, sì. Il pop c'è sicuramente in quello che scriviamo, però magari l'aggressività è più presente in molti altri pezzi, quindi probabilmente il prossimo singolo sarà di sicuro un pezzo più potente. Benissimo, allora cosa ci presentate per finire questa cavalcata con questi quattro ragazzi di Bassano? Cosa ci presentate? Ma Mask è un altro pezzo che sarà nell'album e è un rivisto appunto in chiave acustica. Sì. Bellissima, grazie a Michele Tosone in regia, grazie a Roberto Baldi per le telecamere. La prossima settimana avremo i Kaufman che sono di Brescia. Lucco un po' rock, un rock tra rock e l'elettronico come voi, ma la prossima settimana ci sentiamo, grazie e presentiamo, finiamo in bellezza con un pezzo vostro. Blu Radio Veneto Rock. don't mean to use a gun. I shoot your head before I sight. Change your mask one by one. It's not your face by any chance. You can stop my fight till I will die for you. I know the right thing to do is not the one I thought was right for you. Hiding what you like. We discover, feel no need, no sentiment, no longer now. You're the queen of insecurity. You can stop my time till I will die for you. Like never before, you can always stop your need. You need to be more center, most like Spider-Man. I gotta whisper more like never before. You always tell yourself if you wanna be more. Is it going back on style, but the anymore? I see the burning grass, the perfect cup is waiting for the flight. The mighty cup tonight. We discover, feel no need, no sentiment, no longer now. You're the queen of insecurity. You can scrap the mask, I always stand up empty. Are you little like never before? You can always stop your need. The need to be more than most anymore. I don't even pretend to know myself very well, like Spider-Man. I gotta whisper more like never before. You always tell yourself if you wanna be. Time I wish I was you. Sometime I wish I was you. Rock.